No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ah belli, e mi faccio i cannesi. Non volevo disturbarla. Ma si levi dalle palle, per favore. Avete rotto i coglioni. Avete rotto le palle, chiaro? Io la lasciavo anche andare dove Porco voleva. Avete rotto i coglioni. Avete rotto le palle, chiaro? Chiaro? Tu senz'altro c'hai le corna. Io volevo far sentire ai cittadini che cosa voleva dire questo animale. Chiedo scusa a tutti i cittadini che mi stanno ascoltando, perché questo grande cornuto non si può permettere il lusso di usare parole volgari, perché possono starci anche i bambini, chiaro? E io chiedo scusa anche ai bambini. Tu e cane tante chi ti ammazzate da farti il cuore tutta la vita, tante flammate ammazzate. Tante flammate ammazzate. Miserabili. Ascolta, io ce l'ho a morte con Parenzo. Sei proprio un bigotto, Parenzo. Con quegli occhi da palla, brutto quanto la fame. Parole sante, beh, è stata bellissima questa parte. Lucia ha perfettamente ragione. Hai capito, Mona? Io partirei, caro Davide, dalla coda di ieri sera. Diciamo subito che il nostro regista alla corte è un criminale. Ma perché è un criminale? È un artista. Criminale di guerra. È come tutti gli artisti, ha una sua componente criminale. Un criminale comune. Andiamo avanti. Allora, io partirei dalla coda di ieri sera. Sì. Come se l'attentato non ci fosse stato. È come se Trump non fosse atterrato a Roma. Ecco, tanto un disastro. Come se ci avesse un'ora ad arrivare a Piazza Indipendenza. Che non sapevi che arrivava Trump. Non lo sapevo. Obama, avrei tollerato il ritardo di un'ora di traffico. Il fatto che sia Trump, Donaldone, il signor Donaldone, un po' mi urta. Ti urta il fatto che abbia provocato traffico nella capitale. Traffico veicolare, come dicono qui, pazzesco. Traffico pazzesco. Andiamo allora, avanti. Ragazzi. Torniamo alla fine, il giudizio pacato, sobrio, sì. dello Sgarbone sul sottosegretario Vicari. Non so se ve la siete già dimenticata, il sottosegretario che ha intascato un Rolex, secondo le accuse, noi precisiamo sempre perché non ne possiamo più di finire in tribunale per le querele, per le cose così. Noi siamo garantisti, però. No, ma no, sì, è perché la realtà in questo caso avrebbe incassato Rolex in cambio di una leggina per favorire gli armatori del luogo, gli armatori siculi barra calabresi. Comunque, sì, peraltro un regalo che vale 5.000 euro rispetto ai 17... Non andiamo nel dettaglio. No, ma rispetto a una cosa che vale 17 milioni di euro. No, 7 milioni, ma lasciamo perdere. 7 milioni di euro vale. Sgarbone, 7 milioni. Sgarbone... 7 milioni. Sì, ma a me non mi impressiona tanto questa cosa. Dubbio. Ragazzi, i politici italiani mi hanno, come dire, sorpreso, perché sono capaci di tutto. Possono favorire una piccola cosa anche in cambio di un Rolex. Non lo escludo. Talmente incapaci che sono capaci di tutto. Esatto. Talmente incapaci che sono qua nel paradiso. Sono mesi che sto raccogliendo le firme per abolire il paradiso, che non serve a nulla. Ma perché il paradiso? Ma non serve a niente. Il paradiso lo vogliamo abolire. Ma perché ancora? È gestito da una persona sola. Da e solo che decide. E Dio, da solo, gestisce lui. Dice una teocrazia. Io mi sono sempre battuto, gliel'ho detto. Per la democrazia. Non mi riceve mai. Gli dico che c'è il diritto. tutto, la legge, la libertà. Gli hai rotti i coglioni anche decide lì. Decide solo lui, io raccolgo firme. Ma si sarà rotti, ma con chi raccogli le firme? E si cancellano, no, con le nuvole. Pannella, con chi con le nuvole, ma si cancella tutto, perché hanno fatto un complotto qua, qua su dove sono. Voglio legalizzare la droga, ad esempio. No, e mi dicono che non è possibile. Ma voglio legalizzare. Non ci sarà la droga. Sono pasoliniano, antifascista. Ma quelli che cazzo ne sanno? Non gliene frega niente a nessuno qua. Nessuno, ma squaccio di... Raccolgo delle firme da mesi, da mesi. Voglio fare un sistema elettorale. Dove? Maggioritario, ma uninominale. Per capire chi l'ha votato, gli dico in continuazione. Vabbè. E lui non risponde. Lui dice: no, ma io sono Dio tanto. E io dico: ho capito, io sono Marco Pannella. E ovunque vado devo fare il referendum, Falun Gong, libertà, diritti. E lui dice: quali diritti? Allora, finalmente riesco a farti sentire Sgarbone. Sgarbone. Volevo rimandare questo momento. Sì, capito? Sgarbone. Lo temo molto, volevo rimandarlo. La Vicari ha un cervello di 8 anni. Vabbè, ho capito. Perché uno che mette la Vicari lì, che ora che ha un cervello da 1 a 8 anni, perché comunque uno vuole un cervello da 8 anni, dai, non puoi neanche scovarlo. Ma non è vero. Ma non è vero. Cioè, c'ha un cervello da 8 anni, quella lì andava messa a fare le pulizie nei cessi. Ma dai, ma non si può, ma non la Vicari. Deve pulire i cessi in autostrada, la Vicari. Un Rolex se lo metta. Sentiamo. Devono morire sotto il Rolex. Devono metterselo nel buco del culo, il Rolex. Vabbè. Sono uno che si mette per un Rolex. Non è miserabile. E non va neanche considerato. Vicari, una poveretta, una disperata. È una poveretta, una disperata, è una che... Questi miserabili a cui piace il Rolex, sì, vanno graziati, non puoi neanche cominciare l'inchiesta. Se uno fa una legge che sgrava di 7 milioni di euro alcune tasse a danno dello Stato e prende un Rolex, ma quello è un bambino deficiente. Allora ragazzi, noi trasmettiamo qui a Milano da un meraviglioso palazzo che è stato costruito dall'architetto Renzo Piano, come sai, caro Parenzo, no? Leggo oggi su un quotidiano italiano una cosa abbastanza nota che mi ha fatto però ribollire il sangue. Cioè mi ha fatto non incazzare come una bestia, di più. Ho perso una 20 di minuti del mio tempo quotidiano a leggere attentamente un articolo pubblicato dal quotidiano Il Giornale, Il Giornale. Che ha come titolo Piano in missione a vita. Solo 8 votazioni in 4 anni. Il senatore a vita è un fantasma a Palazzo Madama. Ha saltato 15.700 sessioni d'aula, sempre giustificate. Allora sono andato a controllare perché ovviamente non mi fido, no? Nessuno si fida di quello che c'è scritto sul giornale, diciamo la verità. Uno poi deve andare sempre a controllare, è meglio sempre controllare. In questo caso più o meno era la verità, più o meno era la verità. Cioè questo signore, questo è un archistar mondiale, uno dei grandi intellettuali che abbiamo. Ho detto, non ho detto mondo, questo criminale, ho detto questo signore. Questo signore, non è che gli devo leccare il culo per forza, no? Solamente perché una com'è che si dice archistar, come si dice? Archistar. Allora, questo signore qui ha cliccato il pulsante delle presenze delle votazioni in Parlamento 11 volte su 16.000 sedute passa. 16.000 sedute con votazioni, voti effettuati 11. Beh, lui l'aveva lo detto, 0,07%. Avrebbe detto che sarebbe stato la poco, maggior parte comunque... sono in missione. Ora, missione per conto della Camera, andare a controllare. I controlli sulle missioni praticamente non esistono. Voi sapete che se uno è in missione lo stipendio non viene ridotto. Il suo stipendio viene devoluto a un gruppo di architetti che si occupa di periferie, ma quello sono cazzi suoi. Perché devo pagare io questo gruppo di architetti che si occupa di periferie? Se li pagasse lui, perché con i soldi miei devo dare i quattrini a questi signori che lavorano come architetti per progetti sulle periferie italiane? Non mi importa, cioè non... perché dovrei pagarli? Con i soldi miei. No, ma non li paghi. La cosa incredibile è come no. Sono è soldi un miei. Onore averlo nel Senato della ma questo Repubblica. Questo lo dici tu. Per me vanno aboliti i senatori a vita. A altri personaggi. Ho fatto un piccolo calcolo. Lo sai quanto ci è costato il signor Piano da quando è in carica, cioè dalla fine Beh, di agosto? Quanto ci è costato Razzi? No. Cioè quanto ci è costato quanto a voto costa effettuato? Razzi? A voto effettuato 86.000 euro. Va cioè bene. Ogni volta che ha spinto un pulsante, sì, no. o altre cose sulle votazioni al Senato ci è costato 86.000 euro, amico mio. Dimmi tu, abolire i senatori a vita. Vabbè, questo si poteva fare con la riforma piano, che non è non passata. Piano, abolire i senatori a vita. 86.000 ogni voto di piano, 11 volte ha votato, 11 volte su 16.000. Vergogna, dico solo questo, vergogna. Perché questo non credo. No, questo credo. Ecco, no, questo sì, non credo quello che dici tu, Parenzo. Questo no, questo dice lui, non credo. No, che non credo quello che dici tu. Dalla vostra parte ha portato Poletti a un poligono di tiro, Parenzo. Sì, ho visto, signor Poletti. Senti, sì, signor Poletti che si esercita a sparare. Tecnicamente cosa insegnate? Tecnicamente, allora, l'arma è scarica, in questo caso, speriamo verso il parapalle, mai tenere l'arma con le braccia distese, ma tenerla vicino al corpo, perché nella situazione in cui si distendono le mani, il malvivente potrebbe sottrarsi l'arma. Mai le braccia distese, prima lezione, puntare in una zona non vitale. Dovremmo fare pure noi le lezioni di tiro, lo ma sai? Ma tu ti rendi conto, non serve. Sì, lezione di tiro in diretta, stupendo. Ma tu ti rendi conto? Ma perché? Cos'è? Il poligono? Ma insegnare in televisione a sparare. Poletti al poligono. Poletti al poligono, ma che roba è? E ride l'altro. E quindi puntare verso magari le gambe o in una zona non vitale e sparare. Adesso ti faccio vedere qualche esempio di armi. Queste sono armi comuni che vengono usate anche qui in poligono per i tiri normali. Qui abbiamo delle armi sportive, come si vede, con formazione molto diversa, ed è un'arma che si può... Questo è un taglio... piccolissimo, un'arma nella borsetta di una donna. Esattamente, che si può... li usiamo per difesa, esattamente, no? A un certo punto che collegamento sta nella borsetta di una donna. Sì, certo, assolutamente. Collegamento con una piazza un po' librandiana, non troppo, non è la solita piazza urlante contro il politico di sinistra o contro l'integrazione. Una piazza che parla di istigazione all'omicidio da parte di Poletti e di Quinta Colonna. Sì, non era dalla vostra parte, la Quinta Colonna. Sono molto scioccata, indignata e veramente ritengo che sia questa una trasmissione che incita, insomma, al no, ma è no, città, cioè, perché è un signore che era in una piazza. Benissimo, perfetto, però tutto il metodo sullo sparamento nel poligono mi sembra veramente un'istigazione all'omicidio. Ma cosa, allora, istigazione a cosa? Troppa e molto. Si alza una voce parenziana, si alza una voce parenziana, questa istigazione all'omicidio, perché è la stessa cosa che pensi tu, naturalmente, la ribellione di Del Debbio. Quinta Colonna impara a sparare. Impara a sparare Poletti e insegna a sparare all'italiano. Io ritengo che più armi ci siano in giro e più è probabile che aumentino gli assassini. Lei può dire tutto ciò che vuole, signora. Quello che non le consento di dire è che qui si fa istigazione alla violenza o roba del genere. Buonasera Giuseppe, buonasera rotto il culo di Parenzo. La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Quindi ricapitoliamo, secondo voi Parenzo è pagato dai Rom, pagato da Soros, pagato dal Mossad, pagato dalle lobby dei farmaci, e quanti cazzo di soldi ci dovrebbe avere Parenzo allora? Giusto. Allora, a proposito dell'attentato terroristico a Manchester, sentiamo uno dei cosiddetti moderati italiani, il signor Piccardo, considerato un appartenente all'Islam. Il giovane Piccardo, considerato appartenente all'Islam, moderato. Allora, il signor Piccardo dice che si uccidono milioni di persone anche per esportare la democrazia. Cioè, ma i colpevoli non sono solo i terroristi, ma anche gli occidentali che esportano la democrazia. Sentiamo, signor Piccardo, senti, cosiddetto moderato, considerato dell'Islam moderato. Ha detto una sciocchezza colossale. Considerato Piccardo dell'Islam moderato. Poi io non voglio parlare. Però scusa, ragioniamo un secondo. No, è considerato dell'Islam moderato questo signore. Ma sì, ha bene. Detto una sciocchezza. Sentiamolo. Se la dice Piccardo fa scandalo, se la dice Giulietto Chiesa, ma l'ha detto un giornalista. giornalista. No, ma Giulietto chi te l'ha detto? Tu ti incazzi lo stesso, no? Però non ti incazzi quando lo dice Piccardo. Ma mi arrabbio allo stesso livello. Senti, però ha lo stesso valore di Giulietto Chiesa. Senti, Piccardo. Senti. Piccardo come Chiesa. Piccardo come Chiesa. In nome delle più svariate religioni, appunto, dell'Islam, del cristianesimo, dell'ebraismo, della democrazia liberale, dei diritti umani, della libertà, si compiono stragi, massacri, bombardamenti umanitari, invasioni per l'esportazione della democrazia che producono migliaia o centinaia di migliaia di morti, se non milioni di morti. I servizi segreti hanno spesso coltivato terroristi interni, cioè mette il dubbio. Può darsi che a Manchester siano stati i servizi segreti, caro Parenzo. Gli stati hanno sempre utilizzato il terrorismo, i servizi segreti hanno sempre utilizzato persone con un equilibrio psichico molto molto fragile, molto delicato. In un certo senso se li crescono, se li coccolano. E nel momento giusto li attivano. Quali servizi segreti, di quale stato, non lo so. Sì, effettivamente ragione 2 è esattamente come Giulietto Chiesa dice: i servizi segreti, non lo so. Beh, allora perché lo dici, scusa? Ma in Chiesa, cioè è un Chiesa, però è convertito all'Islam e quindi ci fa ancora più scandalo. Allora, no? Però ci mancava ovviamente la supercazzola di Fusaro. Senti la supercazzola del filosofo. Sentiamo il filosofo. Se da un lato abbiamo la talassocrazia del dollaro, che è lo stato terrorista, per usare le parole prima impiegate, che dall'89 ad oggi sta bombardando impunemente, tramite forme di imperialismo etico e di interventismo umanitario, tutti gli stati non allineati cadavericamente con il suo governo monopolare intollerante. La talassocrazia del dollaro, che vuol dire mare, e kratos, che vuol dire potere, sarebbe il cosiddetto dominio militare. No, lo dico sì, per talassocrazia. L'ho detto per Savino, come si chiama? Savino da Bari. Per Savino da Bari, caro Savino da Bari, impara anche due o tre parole nuove. No, ma questa cosa è la supercazzola. Talassocrazia, sì, quella è una supercazzola. Ma così Savino da Bari impara. Allora, Savino da Bari, Loles da Vicenza, Loles, ecco, sì. Prima lezioncina. Talassocrazia deriva da thalas, che vuol dire mare, e kratos, che vuol dire potere, sarebbe il dominio militare e commerciale. Ecco, avete imparato la talassocrazia del dollaro, gli stati non allineati cadavericamente. Fusaro, ma vaffanculo, no, Umberto da Milano, vai. Come parla, Luciani, senti, spiegami una cosa: com'è tanta indignazione per i senatori a vita tipo Renzo Piano? Sì. E poi pendi dalle labbra di Sgarbi, che è un noto assenteista, altrettanto come gli innanzitutto altri. Innanzitutto pendi dalle labbra tu. Pendi dalle labbra, non pendo dalle labbra di nessuno. Non pendo dalle labbra di nessuno. Difeso. E dopodiché, certo, è un genio assoluto, assolutamente. Se permetti, è molto più genio Renzo Piano. Ma non lo so, non faccio paragoni, non mi interessa. Pazienza, come mai sta indignazione? Sì. Ti segnalo che Sgarbi, a parte che l'assenteismo non c'entra nulla, perché non è che Renzo Piano è assenteista, è assente. L'assenteismo è un reato, diciamo, no? In teoria, quando tu sei dipendente perché pubblico. Ti risulta che Sgarbi avesse delle presenze. Sgarbi è stato condannato. È stato condannato. No, lascia perdere il Parlamento. Non lo so, non lo so. Se non ci andava male. Ci andava male, malissimo, non lo so quando era in Parlamento, dai, quanto ci andava. Amico, però è amico tuo, va bene, dai. Certo, okay. Amico mio, allora qual è il problema? Va non ho capito. Bene, va bene, Renzo Piano non va, è stato nominato senatore a vita e non va mai, 11 volte su 16.000. Sgarbi, se non andava in Parlamento, peggio per lui, male, doveva andare in Parlamento. È stato condannato, se si riferisce a quello, è stato condannato anche per assenteismo sul posto di lavoro. Ma che ne sai? Ma in Parlamento c'è stata una vita facile. Non lo sai, ma non lo sai, dici che assenteista quanto Renzo Piano, che dici? Non lo sai, ma non lo sai, allora che chiami a fare se non lo sai? Vabbè, dai, ok, dai, ciao. Non lo sai e chiama, è assenteista quanto Renzo Piano. Ma che dici, Francesco da Firenze? Non lo sai, informati, vai, Francesco. Devo dire una cosa e basta a Parenzo. Sì. Dicevo, la supposta integrazione di tutti questi stranieri, quando la si mette? Non ho capito, la supposta integrazione. La supposta integrazione alla quale fa riferimento sempre Parenzo. Sì. Io saprei dove mettila. Dove? La supposta nel sedere, tu dici, no? Bravo. Mamma mia. Perché alla luce di tutti alla luce quanto, di tutti gli attentati. Quanto tempo è che aspettava di intervenire? Quanti giorni erano che hai elaborato questa chiamata? Sarà anche 4 o 5 anni, dai. Ecco, appunto. 4 o 5 anni per partorire questo intervento. Dell'integrazione te la devi infilare nel sedere. Questo dice Francesco. C'è la supposta dell'integrazione multirazziale. Questa è gente che rovina quotidianamente il paese. Perché il paese è. Francesco, rovina il paese. Lui, come altri che telefonano, la maggioranza del paese. Io sono l'assassino delle imprese. Solo delle imprese, tu sei un assassino del buon senso. Sì. Tu sei l'assassino del buon senso perché dai una rappresentazione Simone del Pistoia. Paese dell'Eteria. L'Italia è Milano, quelle 100. Simone Pistoia, vai. Chi è che è Simone, caduto adesso? Che stavo per partire col pistolotto. Sì, dimmi, forte. Parezzo. Sì. Parezzo, ma mi spieghi come mai chi ha un'opinione diversa dalla tua, tipo Chiesa, Fusaro, deve essere un rincoglionito che non capisce niente? No, un dipende. Dipende. Invece cosa sei? Di cosa uno, puoi averla diversa dalla mia l'opinione, ma se dici delle follie sono oggettivamente delle follie. Ma follie di che? Ma se non mi sbaglio, un po' di tempo fa avessi un litigio con Giulietto Chiesa sulla Siria, no? Certo, è vero. Certo, e quindi scusa, lui dice balle, e perché le tue dovrebbero essere balle? Ma che cos'è Parenzo secondo te? Non ho capito. Ma Parenzo si spiega da solo, cioè Chiesa è un giornalista e Parenzo e lui che cos'è? Che cos'è? No, un lacchè dei sistemi forti? Un lacchè dei sistemi forti, no, dei poteri forti? No, che cos'è? Non arrivo a dire queste cose. Ma se non sai come definirlo, che chiami a fare? No, Parenzo è uno che si potrebbe benissimo definire. Vabbè, un... ciao. No. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. I will be the greatest president that God ever created. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Siamo tutti malati, tutti con perversioni e il mio raptus erotico consiste nello spogliare Cruciani nudo e fargli una bella doccia, lavarlo tutto accuratamente. Beh, amica mia, no, mi dà fastidio questa cosa qui, mi dà molto fastidio, caro Davide. Pensa, pensa tu quando una volta i tuoi ricordi del sesso sono una cosa ormai superata, andata. Sì, sì, antica. Insomma, antica. Soprattutto i tuoi ricordi del sesso con altre persone, quando magari... Ah, dottore molto impegnato con Presidente Trump a Roma, ai Palioli, invitato da Presidente, perché Presidente vuole incontrare dottore Valenzo, ha detto convocato 19:20 subito, perché ha sentito parlare alla radio di polchelie, sesso anale, polchelie varie. No, veramente no. E dottore subito uscito, andato da Trump. Allora, quando facevi sesso una volta, ti è mai capitato che una donna, come vuole fare questa gentile signorina che mi ha mandato questo messaggio, e intende pulirti prima dell'atto sessuale? Francamente no, a me non è mai capitato. Il dottore beve sangria. Sì, sangria, d'accordo, il dottore beve sangria. D'accordo, signor Filippino, Maltini, poi me lo passerà. Maltini sì, bianco, ho capito, no? Però c'è dottore, uscito, sì, d'accordo. Andato Villa Banfield, dottore Trump e signora Ivanka Blutta, molto volgare signora. Però no, volgare. Sì, volgare. Un pezzo di figa. Ma quale parole Blutta, volgare, donna volgare, non elegante, non porta mai balleline. E a dottore non piace donne senza balleline, con tacco alto, inutile, alto. Una Balbi. Dottore considera signora Ivanka una Balbi. Un pezzo di figa pazzesca, signora Ivanka. Volgale, comunque... signora volgale, volgale. Ma no, dottore dice sempre volgale, signora Ivanka. Vabbè, d'accordo. Comunque, ragazzi, se dottore una vi chiede... Dottore Calla Bruni. Ha parlato con Calla Bruni, per dottore, carità, perché sempre scarpe basse, understatement. Dottore dice sempre, donna deve avere understatement. Beh, ho capito, dottore è un coglione. Allora, io dico una cosa. Sì. Ragazzi, dico una cosa. Se qualcuna vi chiede, come ha fatto questa gentile signorina, di essere messo sotto la doccia, lavato, pulito, prima di fare sesso, Andatela a fare in culo. Cacciatela via subito. Andatevene. Via, via, show. Via. Quando uno inizia una roba, quando uno inizia un rapporto, quando sei lì con l'adrenalina, ma vuoi tutto tranne che pulirti. T'ammoscia, dove la pulizia finisce tutto. Ma tu l'adrenalina, forza, sporcizia, subito quello che c'è. Dai, insomma, come si fa? Mi fanno incazzare questi messaggi, guarda, è incredibile. C'è stato pure un attentato, sì, ho capito, a Manchester, Parenzo, c'è stato un attentato. Sì, esatto, ho questo volevo dire in qualche modo. Allora, a proposito di legittima difesa, la signora De Blanc, senti, la solita signora De Blanc, ormai ospite fissa nelle è la contessa di Quinta Colonna, De Blanc, praticamente. Sì, esatto. Vabbè, ogni trasmissione ha la contessa che si merita. Credo la anche contessa. Dalla vostra parte in questo caso, sì. Non lo so se era Quinta Colonna. La contessa di dalla vostra parte. La signora De Blanc. Non devi avere nessuna paura di avere l'arma, perché se c'hai paura di avere l'arma, l'arma non la puoi avere. Tu devi essere freddo, determinato. E sparargli nelle palle e nelle gambe, così non si arrampicano più. La contessa De Blanc, Parenzo. Hai capito, la contessa hai De Blanc. Hai capito come parla? Perché sparare nelle palle del ladro? Parla in modo nobiliare la signora. Nelle palle perché lo rendi impotente, perciò non tromba più, e perciò questo è già un bene. Beh, la signora De Blanc è ottima, eh? Ottima signora Sarebbe De Blanc. Sarebbe una contessa questa. Cecchi Paone dice che l'immigrazione serve a ripopolare i paesini abbandonati. A Cecchi Paone, inventatene un'altra, va bene tutto, ma i paesini abbandonati, ripopolati dagli immigrati, è una cosa che fa ridere i polli. No, è un'idea straordinaria. Fa ridere i polli. Tempo fa ragionammo su questo con gli amici della LUIS e con altri amici, sì, con questo think tank sull'immigrazione che ho fondato. E quindi abbiamo ragionato a lungo su questo con il professor Daveri. Fammi sentire Cecchi Paone, ti prego. Il think tank sull'immigrazione non ne posso più. Il think tank sull'immigrazione non ce la faccio. Fammi sentire Cecchi Paone, poi me lo spieghi. Cecchi Paone. E il vero dato etico dell'immigrazione, che io difendo in tutti i modi, è ripopolare i paesi che sono stati completamente abbandonati in molte parti d'Italia, perché non c'è più gente, non ci vive più nessuno. Avere persone giovani, perché siamo un paese sempre più anziano. Avere persone giovani vuol dire pagare i contributi per le pensioni di domani, se no tutti voi e tutti noi non avremo mezzo euro di pensione. Cecchi Paone a favore dell'immigrazione, perché così ci pagano la pensione e ripopoliamo i paesini. Incredibile, una somma di cazzate spaventose. Fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare. In parte è anche vero questa cosa qua. In parte è anche vero, non c'è dubbio. Però fare dei lavori che gli italiani non fanno, i famosi 600.000 regolarizzazioni delle badanti, ha fatto bene Maroni a farli, perché 600.000 badanti italiani non li trovavamo mai. Lorenzo da Milano, vai con gli ascoltatori, vai, iniziamo. Pronto? Apriamo le cataratte, vai! Le stalle, vai, le cataratte. Dimmi Lorenzo. Alle 7 meno 5, quando... Sì, aspetta, fatti sentire bene però, forte, la voce la voglio sentire forte, viva, presente, non dagli scantinati, non dalle spelonche, non dalle grotte, vai! Pronto? Eccomi. Mi sente? Ti sento molto bene, vai. Ho detto, alle 7 meno 5, quando ho acceso la radio, c'era un ascoltatore... che mi diceva che lei fa il servo di Sgarbi. Sì, non so, lo dicono in tanti, ma me ne sbatto le palle. Sì, dimmi. Stai parlando tu, che vuol dire? Forse non hai capito bene che io decido i tempi del tuo intervento, forse non è chiara questa cosa. Lei, Cruciani, non è un servo di Sgarbi. Sì. Lei è un caffone arrogante con qualunque ascoltatore chiami, e uno sguatter intellettuale con qualunque personaggio pubblico interno. Sì, bravo, hai detto quello che pensi di me, bravo. No, ancora, vai, certo. Dimmi, ma puoi dirmi quello che vuoi. Sempre nei tempi che decido io. Sempre nei tempi che decido io, ovviamente. Vai. I pantaloni e si china. Sì. La saluto, patetico buffone. Bravo, Lorenzo, bravo, hai fatto il tuo patetico comizietto. Beh, Marco da Roma. Patetico comizietto. Cose. Sì, ma restasse in onda invece di fare il comizietto, no? Sulle va benissimo. Quali riflettere, no? Ma va benissimo, lo sguattro dei politici, cioè di solito sono cose che dicono a te, ma anche se le dicono a me va benissimo. Qui potete tirare tutte le pietre che volete, però rimanete in onda, non fate gli sbruffoni di fare un intervento e poi mettere giù il telefono. La saluto, buonasera. Marco, vai. Sì, eccomi, buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Comunque vi permettiamo di fare anche questo, di fare un comizietto e andarmene, potete fare quello. Non farò comizietti, non ho pietre. Dai, Marco, la cosa che volevo dirvi è relativa a quanto provavate a dire relativamente a Chiesa e al musulmano moderato che avete messo non in è onda. Moderato, quello è un estremista secondo me, un musulmano. Vabbè, estremista, l'avete non so se esistono moderato, i moderati, e viene considerato moderato, ma uno che dice quelle cose anche sulla poligamia che ci ha detto di recente, perché Piccardo ci ha detto che la poligamia va benissimo e deve essere introdotta, è un estremista, punto. Marco, dimmi. E mi riferisco anche al filosofo che filosofo che avete Fusano, sì, ragazzi, sì. Non si capisce nulla quando parlo, capisce solo lui e Parenzo e altri, la gente non lo capisce, parla così per darsi un atteggiamento, è così, è Fusano. Un atteggiamento, ma io ho trovato comunque abbastanza brillanti le cose che dici. Ma benissimo, tu puoi considerare brillante tutto quello che ti pare, e io parlo di comunicazione. Vorrei capire, sì, secondo voi ovviamente a un giorno dall'attentato qual è la vulgata che si può non lo so, non ho la minima idea. Marco da Bergamo, vai Marco. Sì, non lo so, io ragazzi non parlo perché non si sa nulla, inutile quelli che sputano allora, sentenze, non si sa niente. Disturbarvi. Si sa che c'è una rivendicazione e non si sa quanto vera, si sa che questo qua era conosciuto dalle forze dell'ordine, si è fatto esplodere, ha ammazzato 22 bambini, punto e basta, si sa solo questo. Marco, vai. Sì, il mio argomento è velocissimo, è un po' diverso. Dimmi. Io purtroppo sono il papà di una bambina autistica di 4 anni danneggiata dal vaccino esavalente e io ho le prove di questa cosa. E oltre a mia figlia... Non ho capito, danneggiata in che modo? Danneggiata perché mia figlia è nata sana, sì. tutti gli esami erano perfetti, mia figlia ha avuto uno sviluppo normale fino ai 12 sì. mesi, dopodiché ha smesso di parlare e di camminare, a 3 settimane dal vaccino si è riempita di macchie rosse. L'ASL mi ha detto che è normale, l'istituto Besta di Milano insieme a... Ma in che condizione è adesso? Mia figlia è gravemente autistica, lo sarà per tutta la vita, non torni indietro dall'autismo. Sì, tu che ne sai che, scusi, ti do del tuo direttamente, sì, Marco. No, ci mancherebbe. Voglio capire, come fai a essere certo che c'è un legame diretto allora, tra l'autismo di tua figlia e i vaccini? Allora, io ho dei luminari, purtroppo adesso sono dei... Ma nessuno è stato in grado di provare fino adesso questo collegamento, te lo dico, ma No, lo so, il problema è un altro, che io purtroppo mia figlia è seguita vita e mia figlia ha un cervello che è perfetto. È nata sana, di genetico, che tutti dicono che è genetico. Di genetico non c'è nulla perché gli esami genetici sono già arrivati. Ti sento poco, devi avvicinare meglio la... Gli esami genetici della bambina sono... Sì, perfetti. Però adesso io non voglio sapere la tua cartella clinica. È velocissima la cosa, è velocissima. Dimmi. Però tra le corsie i dottori ti dicono che la teoria più accreditata adesso è che un deficit del sistema immunitario che cause molto... ma molte cause possono essere scatenate, tra cui anche i vaccini. No, ma però scusi adesso... Perché altrimenti... Che significa non possono dirlo? Cioè non possono dirlo perché altrimenti salta tutto? Assolutamente sì. Cioè tu mi stai dicendo che molti medici ti dicono che in realtà è possibile che c'è un legame tra i vaccini, il vaccino e esavalente, quelli che tua figlia ha fatto, scusa, e la grave forma di autismo, però non hanno il coraggio di dirlo apertamente, altrimenti salta tutto il sistema, è così? Sì, se vuoi ti dico anche i reparti e gli ospedali, andate con le... Ma che cosa ti dicono esattamente? Quali allora, frasi ti dicono del collegamento tra i vaccini che ha fatto allora, tua figlia primo ti dicono che il... che prima cosa? Prima di tutto è l'unica cosa su cui non danno fondi per fare test sui vaccini. Sì, però amico mio, non andiamo troppo per lunga. Aspetta un attimo, adesso c'è la pubblicità perché abbiamo sempre 1000 interruzioni. Poi torno con te e tu mi devi dire esattamente cosa ti dicono questi medici del rapporto che ci sarebbe tra i vaccini che hanno fatto a tua figlia, che sono quelli che fanno tutti, e la grave forma di autismo di cui è affetta. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Testa di cazzo, perché non fai tu una manifestazione contro i muslim, contro i neri? Perché non lo fai tu? Vediamo quante persone riesci a avere. Testa di cazzo, hai la faccia qui, ho testa di cazzo, razzista di merda che sei altro. You gotta find another way. You better write your mind and live by what you say. Questa è sempre Spada di Fuoco, eh? Che ce l'ha con te, che ce l'ha con te. Ce l'ha con me, Spada di Fuoco, sì. Al signore che ha chiamato contro i vaccini. La Spada di Fuoco del Senegal. La Spada di Fuoco del Senegal. Voglio dire, sì, dai, è un personaggio pazzesco. Voglio dirti questo, voglio dire al signore dei vaccini che contro i vaccini c'è questo. Allora, c'è anche mia figlia Margherita. Che ha attaccato, adesso non risponde più. C'è anche mia figlia Margherita all'ascolto, quindi ti prego per questi 10 minuti di non dire parolacce. Ma io sono come prima. Non modificherò di un millimetro il mio atteggiamento. Mia figlia di 10 anni ha fatto tutti i vaccini necessari. Allora, se purtroppo questo signore ha avuto una tragedia, l'ha avuta evidentemente perché ha avuto una reazione rispetto a quella che era lo stato di salute del figlio, no? Cioè ogni cosa, ogni farmaco, anche un'aspirina può far male se tu stai male e il tuo organismo non è pronto Parenzo, a riceverlo. Due punti, le aspirine possono fare male quanto i vaccini. Non quanto i vaccini, ma sicuramente come qualunque medicina. Come qualunque medicina. È una campagna infame quella che stanno facendo, infame. Ieri abbiamo sentito questo Pepe, come si chiama? È una vergogna, è un atteggiamento criminale quello di queste persone. Sì, è criminale. Gente che la pensa diversamente perché poi da te, il dolore punto. Di questo padre, no, ma la comunità scientifica, vabbè, non Parenzo. D'accordo, ma quello chi se ne frega? Ma come vabbè? Ma ci sarà un punto fermo in una discussione? Vabbè, infatti decidono. I farmaci infatti che decidono. Finiscono nelle nostre pance vengono verificati dalle cause farmaceutiche prima e poi dall'AIFA a proposito, allora ieri abbiamo citato un tale che si chiama Donolato, che non è un medico, è un tizio che conduce il presidente del coordinamento veneto per la libertà delle vaccinazioni. Ma chi è Donolato? Un tizio che si chiama Donolato, trasmette fa una trasmissione su Radio Gamma 5, che è una radio molto contro i vaccini, una radio locale, una radio su web, non so che cazzo è. Avrebbe chiamato, l'abbiamo già detto ieri, una donna incinta che ha detto: piuttosto che vaccinare il mio bambino, preferisco abortire. Lui avrebbe risposto: ha ragione, invitiamo tutte le gestanti a interrompere la gravidanza oppure ad andare all'estero, come molte famiglie stanno facendo. Ma fermatelo, aspetta, o a imitarci, noi a settembre toglieremo i nostri figli dagli asili mentre quelli in età elementari studieranno a casa, e allora vedrete quante scuole chiuderanno. Bravi, chiamiamo questo Donolato. Che roba da criminali, è un tema di salute pubblica i vaccini, non è una discussione, dice sì vaccino però sì vaccino si può no. Discutere, per fortuna si può ma discutere. Si può discutere su dati scientifici, ma no, ma anche se qui l'OMS, noi discutiamo su che cazzo sì, ci pare, chiaro? Siamo d'accordo, ma se l'Organizzazione Mondiale della Sanità va bene, pazienza, fammi sentire questo Donolato, chiamiamolo, dai. Ma Donolato è un criminale. Pronto? Sì, Donolato? Sì? Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Salve. Salve Donolato. Senta, noi vogliamo sapere una cosa, vogliamo fare un po' di chiarezza su quello che è successo l'altro giorno. Sì. Durante la sua trasmissione su Radio Gamma 5, sì. È vero che ha chiamato una donna incinta che ha detto che piuttosto che vaccinare il mio bambino preferisco abortire? Ha detto che lei abortirà. Sì. Visto che, come ha scritto il Ministero della Pubblica Istruzione, sì. Negli ultimi 10 anni, questo è una circolare dell'anno scorso, sì. È stato nelle scuole un aumento del 40% di bambini disabili, per cui lei ha detto io non me la sento di rischiare. Perfettamente d'accordo con quello che lei decide. Sì, d'accordo, ma non vuole rischiare che cosa, scusi? Di avere un figlio disabile. Scusi, se uno può controllare se uno è disabile o no il bambino, no? Prima dei 3 mesi. Esattamente. Come mai c'è un aumento del 40%? Le faccio io la domanda. Lei. No, ma no, scusi un attimo, al di là. No, questa è una circolare del Ministero della Pubblica. No, ma al di là di questo. È una circolare del Ministero della Pubblica. Quale circolare? No, aspetta. No, vabbè, aspetto, io aspetto, però aspetto. No, vabbè. Ma. Fai sempre attaccare. No, ma questa fai gente qui attaccare. Fa disinformazione pericolosissima, eh. Sentiamo ancora Donolato chiamare. Pericoloso. Pronto? Eccoci qua, Donolato, scusi. Scusi, io non ho tempo a perdere. No, ma io voglio fare chiarezza. Cominciate a. No, io voglio fare chiarezza. Io voglio fare. Il sole 24 ore vendete realmente e non date bilanci falsi. Ma che c'entra? Che c'entra? Scusi. Allora, che radio siete? Radio 24. Radio 24, sì. Di un giornale che dà bilanci falsi. Ma quello lo lascia alla magistratura. Ma vada a cagare lei, ma che vuol dire? Scusi, Donolato? Che cazzo c'entra il sole 24 ore? Questo è un coglione. No, si permette. Uno può dire quello che vuole, ma che c'entra? Ma come si permette? Fatemi di nuovo sto numero, vai. Fatemi di nuovo sto numero, questo mi fa incazzare come una belva, Una belva, questo diciamo donolato. Donolato, signor Donolato. Vabbè, ma tua figlia può sentire incazzare, non è che si stupisce. No, lei la molto dici educata, la parola incazzare davanti a lei? No, ma sì, è educatissima, sì, lei sì. Sorrida, bambina Margherita, si dice ogni tanto incazzare. No, bambina educatissima. Sì, è il sinonimo di arrabbiare. Ecco, sa che non si dice perché arrabbiarsi o molto incazzarsi dolce. È la stessa cosa. Tu lei per adesso puoi dire arrabbiarsi. Esatto, quello che può dire lo dico io, non tu intanto. No, ma che c'è? Questo grazie per l'educazione che tu insegni, insegna la tua figlia che io alla mia insegno. Ma che c'entra, sto scherzando. Andiamo avanti, rispondi, va. Questo qua, donolato. Io conoscevo la dadolata di tonno, ma non sì. Donolato. Gente ha il demerito di portare alla ribalta persone che devono stare all'oscuro, che sono personaggi... Meglio abortire, avrebbe detto questo donolato, che prendere i vaccini. Simone dalla provincia di Milano, dai. Simone, dimmi. Sì, pronto. Vai, buonasera, vai, dimmi. Parenzo, buonasera. Vai. Con sto buonasera che mi rompe i coglioni, dai. Dai, forza, su. In merito a quanto detto da Piccardo, molto sì. Semplice. Si prende Piccardo, lo si manda, lo si porta dai servizi segreti, si prende e lo si espelle dal è paese. Italiano. Sì, ma è italiano. È italiano. Fa niente. È italiano. Allora, con Giulietto Chiesa anche. Siccome quella, dirà che è una razza bastarda e quindi... Che vuol dire una razza bastarda? Cosa dici? Come si permette? Gli islamici, i musulmani sono una razza bastarda. Ma come si permette di usare la parola razza e la parola bastarda? Cioè, tu stai dicendo che gli arabi, i musulmani, quelli che sono musulmani, sono una razza ma bastarda? Come si permette? Certo, assolutamente. Che vuol dire una razza ma bastarda? Ma lei è un razzista. Sì, se posso finire, è molto semplice. No, non c'è da parlare un attimo. No. Tutti quelli che gli stanno intorno sì. Gli stirpano le radici dal territorio italiano, gli si mandano, a Raqqa a vivere sotto le bombe. Ma è complicato. È diventato stupido o è nato stupido? Per capire, perché ha detto una serie di. Ha detto una. Ecco, quindi è nato stupido. Beato, però, lei scusa, che è stupido. Simone, infatti, Parenzo, io se fossi in lei. Lei è veramente sciocco. Lei, no? Invece sciocco. Di riempirmi la bocca di queste facce. Allora, lei parole, ha detto due stupidaggini. No? La prima, espellere Piccardo. Piccardo è italiano, lei, quindi dovrebbe fare espellere anche Giulietto Chiesa. Mi meraviglio che lei sia di. Religione ebraica. Io mi meraviglio, io mi meraviglio di lei. Anzi, mi vergogno per lei. Mi dispiace per lei e per i suoi. Perché lei è pericoloso. Ma lei non sa. A me dispiace per i suoi parenti. Perché è pericoloso? Per le figure da palta che fa in diretta. Perché uno come Parenzo in Israele lo espellerebbero subito. Ma cosa espellerebbero ogni anno, vai almeno due volte all'anno? Ma cosa ne sa lei? Sì, però perché sono una razza bastarda? Perché sono una razza bastarda? Perché? No, ma poi la parola perché razza. Perché loro? Cioè, tu cacceresti tutti gli islamici dall'Italia? Assolutamente sì. Cioè, ecco. Tutti quelli di religione islamica vanno cacciati. Sì, certo, perché la loro religione prevede solo ed esclusivamente la conquista dei nostri territori. Ma e cosa quindi, dice? Come noi ma non li vogliamo, queste persone noi vanno non li messe vogliamo, tutte ma noi, al confine. Ma cosa dice? A parte quei quattro. Ma se uno è italiano c'è un problema in questo caso. Io capisco, cioè non capisco, è una follia I mandare morti, tutti gli islamici, però di Manchester, purtroppo è brutto da dirlo, ma siccome la polizia lo sapeva e i servizi lo sapevano che questa sapeva? Persona era seguita ed era pericolosa. Quella persona avrebbero dovuto espellerla per tempo dall'Inghilterra. Adesso insomma anche al governo inglese. Adesso Simone dalla provincia di Milano, un signore che non ha né arte né parte, insegna all'intelligence inglese cosa avrebbero dovuto fare. Cioè ti rendi conto sta trasmissione cosa ma che c'entra? Simone dice la sua, dice la sua su un fatto di colore. Imbecille, a questo povero imbecille gli fanno credere che vuole fare Trump. Tu sei pericoloso, devi essere lei è una persona incredibile. Lei uno è incredibile. Pericoloso de- uno pericoloso. Cioè che il parere di Simone conti quanto paese. Quello dell'intelligence inglese è incredibile. Infatti non conta. La gente non ti segue. Se facciamo le votazioni su quello che dico io e su quello che dici te, vinco io e tu perdi perché le tue minchiate hanno stancato la gente. Valete lo 0,5%. La realtà, il paese non siete voi che chiamate. Il paese, sono quei 100.000 di Milano. Il paese è quello, il paese reale. Ma che c'entra i 100.000 di Milano adesso? La marcia di Milano, non ma lui. Che c'entra? Non Simone dalla provincia di Milano. Simone, ciao Simone. Ciao. Ma niente fosse pure ricchione. La Zanzara. andiamo avanti. Allora, con noi ritorna la zanzara Matteo Salvini. Buonasera, ecco. Buonasera. Buonasera a tutti, tranne che a Parenzo. Ma ecco, perché ha fatto insulta gli ascoltatori, come quello che ha chiamato prima, che sì. Dicono quello che è un pensiero comune, ah, razza, di consenso e diffuso. La razza bastarda, lei condivide, amico, no, onorevole, la parola razza bastarda? No, dai. L'espellere chi è pericoloso penso che sia di buon senso. Ma sì, ma Piccardo è italiano, allora bisogna espellere. Ma no, ma chi se ne frega di Piccardo? Quanti imam fanatici ci sono in giro per l'Italia? Infatti per sono stati espulsi. No, infatti quelli pericolosi sono espulsi. Alcune decine che stanno ancora nel nome, cioè, della sua accoglienza, sai i nomi tu e non li sa il ministro Minniti? Voglio dire, se hai i nomi dillo alla procura. Il signore che è stato accolto, facciamo un po' di nomi, forza, facciamo un po' di ma nomi. Guarda, c'è un signore in giro per Bolzano, sì. Bolzano. Tariq Ramadan. Ma non sta in Italia, però. Ma lo conosco benissimo anch'io. Tariq Ramadan è un signore, perfetto, che è considerato un intellettuale del mondo islamico. Viene invitato nei più prestigiosi atenei italiani. Perché allora, viene invitato. Invito gli ascoltatori ad andare su internet e cercare il curriculum di Tariq. Sì, ma quello Ramadan. Non lo conosco benissimo. Non risiede in Italia, però. No, sta arrivando in Italia a predicare. No, a predicare, lo volevo invitare anch'io a un convegno, Tariq, sì, Ramadan, ti do questa notizia. Volevo invitarlo anch'io a un convegno. Però voglio chiedere a Sabini, perfetto, quando lui dice reagire con la forza a quello che avviene è con la forza. È ospite in Inghilterra sempre, ma sì, che un dici, attimo, Tariq, mi puoi fare una domanda? Dichiara la, sì, perché dichiara guerra a Tariq Ramadan, benissimo. Ma, caro mio ignorante, Ramadan dice stati, delle cose estremiste ogni tanto, perfetto, dai, su, dice delle cose di morire. Su internet a ricercare delle dichiarazioni di questo Tariq Ramadan, certo, violenza inaudita. Dice delle cose, cattura internazionale. Invitato a Bolzano dal Centro per la Pace. Andrebbe arrestato? Ma non dovrebbe mettere piede in Italia. Allora io dico una cosa. Sgradito che non dovrebbe mettere piede in Italia. Scusami un attimo, dovrebbe predicare odio e fanatismo. Lo faccio a casa sua, ma non in Italia. Scusami, hanno pubblicato un libro per la Mondadori. Ti risulta? Bella roba. Tu vuoi fare l'alleanza con Berlusconi? Vuoi farla? No, tieni presente che la Mondadori ha pubblicato uno dei suoi libri più importanti. Questo pure ho capito, ti do una notizia. Era il Mein Kampf, in edicola poco fa. Ah, qui, scusa, il giornale pubblicava il Mein Kampf. Il giornale lo pubblicava con altre, diciamo, forse finalità. Però, diciamo che questi sono però, i nazisti del 2000. Ti voglio solo dire che signor Tariq Ramadan pubblica con la Mondadori. Cioè, i terroristi islamici sono i nazisti. E gli altri islamici che sono in Italia? I terroristi sicuramente sono. Mi piacerebbe che alzassero la voce. Non perché, cioè, gli islamici sono complici? Gli islamici sono complici? Quelli che tacciono, sì. Quelli che stanno zitti. Che vuol dire? Non è che solo quelli stare che zitti. Fanno finta di niente, sì. Cioè, perché l'Islam non stanno riempiendo le piazze. L'Islam, l'Islam ha fatto la marcia per i migranti. Possiamo fare una bella marcia contro la violenza e il terrorismo islamico? Possiamo. Ma certo, cioè, quelli che hanno fatto la marcia sabato, secondo te sono complici del terrorismo? E organizzassero un'altra marcia. Ma sono complici del terrorismo, secondo te? No, quelli che c'erano in piazza sabato. No, perché qualcuno dice: noi salviamo i bambini nel Mediterraneo, certo, e loro ci uccidono. Ho sentito questa cosa. La cosa vera è che questa è l'ennesima riprova che certe culture prendono la nostra accoglienza per debolezza. Faccio un esempio. Intere città britanniche, la stessa Manchester e la stessa Londra riconoscono per il diritto di famiglia la Sharia, la legge islamica. In Inghilterra sono riconosciuti dei tribunali islamici per regolare il diritto di famiglia. Non è possibile, non è accettabile. Su questo ha ragione. Perfetto, ha ragione. E allora mettiamo fuori legge chi esercita questo presunto diritto. Ma quando tu dici reagire con la forza al terrorismo, concretamente adesso, tu credi per esempio alla rivendicazione dell'ISIS? Quando l'ISIS rivendica qualche cosa, ci credi? Oppure... Non faccio. Sì, ma reagire con la forza, che significa? Che significa reagire con la forza? Concretamente. Ma reagire con la forza, ad esempio, smetterla di finanziare quei paesi che a loro volta finanziano l'estremismo islamico. Ecco, penso all'Arabia Trump. Saudita e al Qatar. Diglielo a Trump. Capito, ma Trump va in Arabia Saudita. Trump è andato, ma ti risulta, almeno rileggi i giornali. Trump è andato in Arabia Saudita a dire siamo amici di Trump. Siamo amici degli Trump sauditi. È andato in Arabia Saudita e stando allo stenografico è il primo presidente degli Stati Uniti d'America o di un paese occidentale che è andato là a chiedergli formalmente di riconoscere parità di diritti fra uomo e donna formalmente... e di metterla con la persecuzione degli ebrei e dei cristiani. Non è stato, dovrebbe essere riconosciuto. Non è stato ostile, diciamo. Non no. È stato, sono d'accordo con te, ma non è stato ostile con calante, quella monarchia. Le braghe, mettersi il burca, il velo, inginocchiarsi. Un conto è andare là orgoglioso a dire da pari a pari: ragazzi, smettiamola di scherzare. Scusate, ma tu quelli che fanno i terroristi, eccetera, come li definiresti? Degli stronzi, per esempio, dei figli di puttana, come quelli che organizzano. Dei vermi. Uno che si fa saltare ammazzando dei bambini, certo, di 8 anni è un, non è definibile, ma, non è evidente, è, ma il verme ha più dignità. A Manchester hanno bruciato per reazione la porta di una moschea. Le moschee tu le vuoi eliminare dall'Italia? No, le moschee io le vorrei censire, vorrei sapere chi le finanzia. Io bloccherei qualsiasi nuova concessione. Farei un controllo a tappeto di qualsiasi presenza islamica regolare. Bel risultato. Vorrei sapere chi finanzia. Così rimangono clandestine. Cosa si sa già. Predica, chi entra e chi esce. La moschea di Roma si sa già da chi è finanziata. Beh, no, io non so. Come no? Ci accogliamo. Qatar? Ma si sa perfettamente. È pubblico questo. Raccoglie attentati. No, ma scusami, però stiamo parlando. Io conosco Matteo Salvini da 15 anni. Guarda, di chi è finanziato dal Qatar o dalla conosco Saudita. Salvini da 15 anni, dunque, 15 anni. Lui faceva il giovane giornalista Radio Padania, allora? Io facevo il giovane giornalista a Telelombra. Da 15 anni lo conosco. Da 15 anni è in consiglio frequenta la politica milanese. Da 15 anni Viale Jenner la gente prega per strada nella clandestinità. Se lui preferisce questo che è il modello Milano che lui Viale ha portato Jenner, avanti per 15 anni dovrebbe essere chiusa. E fategli una moschea, infatti fategli una moschea. Devono avere una moschea. Invece voi avete preferito che loro pregassero per strada via Le Iene. Avete costruito voti su quella roba lì. Ma pianta la dire fesserie. Voti avete costruito. Io non concedo. Io leggo addirittura che c'è la confessione islamica che vorrebbe fare un accordo con lo Stato italiano per avere il 5 per 1000. Sì, giusto, e ci manca l'8 per 1000. Ci manca giusto questo. Giusto questo. Fino a che i paesi islamici non sottoscrivono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Nessuno 8 per 1000. Nel 1948, ma io non ti do l'8 per 1000. Ma non ti do neanche la possibilità di esercitare il tuo culto. Ce lo diciamo. Beh, questo che i paesi islamici non sottoscrivono la parità dei diritti fra uomo e donna. Cioè, no, secondo viene prima la legge. Ma secondo te dovrebbe essere dichiarato illegale l'Islam allora in Italia, dato che in molti paesi islamici non c'è la democrazia, eccetera, eccetera, dovrebbe essere dichiarato la democrazia. Io non voglio esportare la democrazia suon di bombe in Iraq, in Ma questa famosa dichiarazione, secondo te l'Islam è illegale? La parità allora, finché non si riconosce la parità di diritti tra uomo e donna, tu a casa mia non metti piede. E dunque? Okay? Blocco all'ingresso degli islamici in Italia? Come Trump. Ma questo, cioè, secondo te andrebbe fatto o no? No, ma andrebbe fatto il blocco. Ma andrebbe fatto il blocco totale, Blocco ma totale all'ingresso degli islamici. Vabbè, lascia perdere chi lo chiede, monsignore, chi se ne frega. Io come monsignore lo sai. Monsignori non sono molto per i monsignori. Ci sono alcune culture più affini alle nostre. Dunque, bloccare, data l'emergenza dopo la te, bloccare l'ingresso degli islamici. No, vabbè, comunque, bloccare l'ingresso degli islamici finché non c'è reciprocità. L'immigrazione deve essere arrivi da paesi di culture. Bloccare gli islamici, come vuole fare Trump. Vabbè, fermo lì che parliamo di vaccini. Chiedo scusa, un momento, pubblicità. La Zanzara. Allora, il top l'avete raggiunto, non vi rimane che chiudere tutto. Chiudere tutto! Questo è della corrente Parenzo, questo qua. Della corrente Parenzo. Top raggiunto, chiudere tutto. Vabbè, ragazzi, siamo con Matteo Salvini, leader da poco confermato della Lega Nord. Con un caro plebiscito, Parenzo. Dobbiamo dire. Vabbè, onestamente. Plebiscito, le votazioni. Non mi occupo molto di. Ha avuto il merito di trasformare quel partito locale in un partito nazionale. Ha capito che il tema vero è l'Europa. Insomma, ha dei meriti politici, fuori di dubbio. Nonostante il fatto che tu lo contrasti. Ha bevuto due spritz. Ma no, ma io l'ho sempre detto. Lui, come è stato scritto in un grande libro che si chiama Romanzo Padano di David Parenzo, Storia della Nord, Boss e Boss, grande libro, spelle che buffa. Vabbè, a proposito di pubblicità, Salvini, domani sarò in Abruzzo alle ore 15 all'Aquila. Vabbè, ragazzi, e poi dai, ma facciamo la trasmissione. Ma perché Parenzo per Parenzo mi trascina sempre sul piano delle marchette. È una cosa incredibile. Volevo dire, dare merito a Salvini. Vabbè, ma chi se ne frega, dai, di aver trasformato un partito che voleva l'indipendenza della Padania e ora vuole l'indipendenza dall'Europa. Quindi ha cambiato poco in realtà, ha cambiato solo l'obiettivo. No, sì, da Roma ladrona, da Roma ladrona è passato a Bruxelles ladrona. Il linguaggio rimane lo stesso, però. Vabbè, però voglio capire una cosa: hai detto sui vaccini che non sopporti l'idea che tolgano i bambini ai genitori nel caso in cui. È una follia. È una possibilità, non è una certezza. Ma ci mancherebbe che ti venisse a casa l'assistente sociale o il giudice del tribunale. Cioè, secondo te ci vuole tuo figlio? Ma io sono d'accordo, avendo vaccinato i miei figli ed essendo vaccinato io. Ma tu sei per la libertà? Io sono, sì. Io sono assolutamente convinto del fatto, come ha detto il direttore dell'Istituto Superiore della Sanità, che bisogna lavorare sul convincimento, sì, d'accordo, ma culturale, bisogna spiegare l'utilità. Ma secondo te ci vuole come per alcune migliaia di bambini ci sono contro indicazioni, ci sono alcune migliaia di vittime e allora? Dell'esagerazione dei vaccini, e allora obbligare tout court mamme e papà a fare quello che per alcuni è stato un danno fisico, sotto l'arricatto di togliere la patria potestà, e addirittura quella cosa più volgare, che c'è un problema di salute pubblica, euro di multa da pagare, ti puoi permettere, sì, di ma ho fregartene. Capito, ma secondo te può andare se a scuola un bambino no, non vaccinato può andare a scuola secondo te? Lo no, esponi analizzati bambino, no, vabbè, lascia perdere analizzati, ma uno ma che non presenta così, è già così, è diverso da un altro, ma no, ecco, ma quella così. È la parte medica, sono, ma secondo già te così. Se uno e non si vaccina sono mancanze di riscontri sulle controindicazioni di alcuni di quei dolori, sì, d'accordo, d'accordo, sì, di alcuni di quei, ma è già così, ma tu sei per la libertà di vaccinarsi totale, cioè può andare a scuola un bambino non vaccinato, sì o no? Ma questo gliel'ho chiesto a Sabini, mi va. Ma ti dico di no. Ma è questo gravissima. Lo dici tu, fai rispondere a Sabino. È grave, ho capito, ma è grave. Parenzo, sei incredibile, cacchio. Puoi andare, a scuola secondo te o no? Uno non vaccinato, un bambino non vaccinato. Se è scientificamente provato che quel bambino non è in grado di sostenere una delle 12 vaccinazioni, io in classe con mio figlio lo prendo. Mm. Cioè, secondo te un bambino che non si vuole vaccinare, un bambino non può essere vaccinato, ripeto. Vabbè, ma ci sono anche quelli che non vogliono vaccinare i bambini. No, ma poi ci sono quelli che non vogliono dargli la carne o il pesce perché no, ma ci sono quelli che non li vogliono vaccinare, questi qua devono andare a scuola, sì o no? Deve essere una controindicazione medico-scientifica. Secondo te le multinazionali guadagnano troppo con i vaccini? Cioè 12 vaccini obbligatori sono troppi, dimmi la verità. 12 non ci sono da nessun'altra parte. E dunque sono troppi secondo 12 te? Vaccini, ma si stava parlando della varicella. No, ma secondo te sono troppi o no? Sta sono tornando. Troppi, sì. Ma dunque, è un regalo alle multinazionali? Da papà, io mi ricordo, era sconsigliato, l'ho fatto lo stesso. Però ci saranno papà e mamme all'ascolto o pediatri. Era sconsigliato il vaccino esavalente, ma cosa perché c'era? Potrebbe avere troppe controindicazioni, dunque passiamo da 4 a 12. E dunque è un regalo alle multinazionali? Sembra che su alcuni di questi vaccini direi di sì. Dunque questo su alcuni di questi vaccini che non hanno controprove medico-scientifiche delle controindicazioni. Beh, secondo te però, il fatto di renderli obbligatori secondo te è uno stato criminale allora, cioè mette no, dentro delle sostanze ai bambini. Lo stato criminale è ma scusa, è un'altra cosa. Uno stato che impone no, ma però secondo dai ragazzi, ma non è possibile. Io finanzierei campagne di informazione sull'utilità dei vaccini. Lo fa il ministro Lorenzin, lo ragazzi, sta facendo. Ma facciamo una cosa, andiamo una cosa un po' più leggera. Che ne pensi? D'accordo, che ne pensi di Berlusconi che fa il partito animalista? Non è una cosa patetica? No, dimmi la verità. Le sue priorità, no, ma guarda, i miei bimbi hanno ripreso entrambi un cagnolino negli ultimi 15 giorni. Detto questo, non mette in piedi un partito. No, ma è una cosa patetica o no questo fatto di fare un partito animalista? Lui è molto sensibile, ha detto che nel parco ha agnelli, pecore, caprette. Bisogna fare il partito enorme. Anti-animalista, il partito umano, il partito degli umani, non il partito animalista, il partito pro-umani. Dai, con 7 milioni di italiani sotto la soglia di povertà io mi occupo dei viveri. Ecco, appunto, tu ti occupi dei viveri e non degli animali, diciamo la verità. No, ma per carità, chi maltratta gli animali dovrebbe essere... Ma lascia perdere. Salvini non occorre che faccia il partito animalista, è già pieno di bestie là dentro che dicono delle cose inenarrabili, talmente razziste alcuni di loro che non c'è bisogno di fare partito animalista. Perché non si approva una proposta di legge della Lega che funziona in tanti altri paesi d'Europa, che vieta la macellazione rituale islamica. Ecco che fa soffrire gli animali ancora vivi. Ecco un'altra cosa incredibile, folle, incredibile. Per me va bene, tutte le macellazioni vanno bene. La macellazione islamica, come quella ebraica, riducono la sofferenza dell'animale. Perché anziché sparargli, gli devi tagliare di netto la carotide e l'animale è stordito immediatamente. Adesso abolire una cosa anzi ed è la carne più sana quella islamica e quella la ragazzi, carne più sana, a proposito, l'animale muore distanguato fra atroci sofferenze, ma la carne ma più sana, a proposito, non sente niente l'animale. A proposito il tuo amico Spalletti oh mamma mia, probabilmente viene all'Inter, quasi al 100% viene all'Inter il tuo amico è un perdente Spalletti, mi piace per lui che si offende. Ma se devo scegliere fra Totti e Spalletti, scelgo Totti. È un gigante, ah, tutta scusami, la vita. Scusami. È un gigante a confronto di un microbo. Se devo mi scrive Spalletti all'Inter, nella tua città, Inter verrà. Vabbè, a Milano. Qua abbiamo cinesi ovunque a Milano che comprano le squadre. Cosa vuoi che me ne freghi di uno Spalletti in più in me? Mi scrive in questo momento Abdalla Kabakebji. Oddio, che dice, vostro Kabakebji. È il marito, è il marito di una consigliera comunale che ha rapporti con gente estremista. Che, quali sono sì, quella consigliera comunale che si chiama Sumaya ha rapporti. Frequentazioni che ha fatto. Mi dice, faccio gli auguri. Vedi come è educato il dentista Kabakebji, siriano, bravissimo dentista. Faccio gli auguri a Salvini per la conferma del suo incarico. Gli chiedi per favore di farci gli auguri per il Ramadan? Questo ma chiedo. Non credo proprio che farà gli auguri per mi il Ramadan. Mi interessa relativamente, guarda, onestamente. Ma, bravo, anche quello. Manco gli auguri per questa importante cosa, non mese islamico. Secondo me un certo tipo di cultura islamica è incompatibile con i nostri valori, le ma nostre Ramadan, cosa ti per te l'Islam è incompatibile, diciamo ma la verità. Per te, Ramadan. Per te l'Islam è incompatibile, diciamo la verità. Per te l'Islam è di piazza, sì, ma diciamola oggi, tutta. Taglia di sdegno nei confronti dell'ennesimo attentato. Kabakebji, faccia una manifestazione, il tuo amico Kabakebji. Oggi una faccia una manifestazione oggi contro l'estremismo. Di fare una bella marcia contro l'estremismo. E ma secondo te l'Islam è compatibile con la democrazia o no? Diciamolo. Ad oggi no. Oggi ad non oggi è compatibile. No, caro mio. Bossi, ad lo ricandidate no. O no? Bossi. Ma non si sa né a me non me ne frega nulla della vicenda Bossi. Però Bossi che è in Parlamento lo ricandidate o no? È meglio che dopo tanto tempo si rimanga. I militanti. Noi siamo un partito. Vabbè, lascia perdere adesso i militanti. I candidati li scegli tu. Non è io che li scegli. Mi rifarrò a quello che sarà. Sì, d'accordo, ma Bossi ritorna Bossi in Parlamento o no? Appunto, ma ritorna in Parlamento o no? Chiederemo ai militanti. Non ma che vuol dire? Non c'entra nulla di chiederemo ai militanti. Non sono in grado. Ma dopo tanti anni. Dopo tanti anni, Bossi rimane in Parlamento o è il caso io che... Io sarei favorevole al limite dei due mandati e questo proporrò. Allora va a casa, allora resta a casa. Certo. Io sarei favorevole al limite dei due saresti... mandati a prescindere il segretario. Qualunque incarico nello stesso ruolo. Vabbè. Io propongo. Chiudiamo, questa, chiudiamo con una cosa, ti sposi o no? A parte il fatto che non gliene frega niente a nessuno. Ma no, ma è interessante perché il matrimonio è un matrimonio. Ma vengo a parlare dei miei problemi. No, delle mie... ma perché c'è stata una lunga discussione con noi sul matrimonio, con la gente contro io il matrimonio. Se c'è il pranzo di nozze vengo sempre volentieri. Ma chi guarda, ti noi stiamo lavorando per cambiare la legge sull'affido condiviso. Bravo. È l'unica cosa che ti posso questo dire bravo. In questo termine, sì, perché è una sposarsi legge inapplicata e inapplicata. Ma sposarsi due volte bravo, è una cosa. Ne ho discusso stamattina con una persona qui alla radio che era sotto di me, che si è sposata per la seconda volta. Manager di un'azienda sposa tre volte, quattro volte. Sì, io gli ho detto, ma chi cazzo te l'ha fatto fare? La risposta, sai qual è stata? Sai qual è stata la risposta? Lei è ricca. E ho detto, vabbè, amico mio, sei ricca. Sei ricca. Mi permetto di dire che è tristezza. Bravo. Così, su questo non voglio giudicare la vita. Sì, ma no, ha ragione. Io gli ho detto, hai ragione tu. Ma come hai ragione? Hai ragione, gli no, ho detto. Sei una bestia, hai sei. Perfettamente ha ragione. Salvini, ma sei un animale, il secondo matrimonio si può giustificare ma solo sei. In presenza del capitale. No, questo, mi ha detto questo qua che lavora peraltro per un'azienda. Sposa tre volte, quattro volte. No, ma lascia perdere. Questo qua lavora per un'azienda, diciamo, di sinistra, tra l'altro. Considerate di sinistra, in realtà, parole di sinistra. Quindi però era sabato in piazza mi per ha detto non credo se ne fotte totalmente no. mi ha detto sarà contento di essere citato no così, mi ha detto nome e cognome c'è il capitale. Io ho detto c'è il capitale, a me pare una vergogna stupendo. Questa cosa c'è il a me mette tristezza sì molto. Vabbè, anche insomma a me. Ti sposeresti bravo, per la seconda volta sì o no? No, non sei, ma evito di mettere le mie cose private su. Ma se le metti sempre sei andato nudo su una copertina, sei andato nudo in copertina, dai su. Ah no, io me stesso medesimo mi posso prendere in giro per la mia pancetta. Sì, certo, su questo è assolutamente è abbastanza imbarazzante. Però le altre persone che mi stanno vicino vabbè. Hanno diritto su questo alla ha ragione. Tranquillità. Ciao, su questo ciao, ha ragione, ciao. Ha la mia solidarietà, ciao. Scusa per la domanda di Cruciani. No, fanculo, va, ciao, ciao. No, ciao. Gabriele, Milano, vai, Gabriele. Ciao, ciao. Dimmi. Senti, io volevo dire che per abbattere lo sfruttamento della prostituzione mi sembra obbligo legalizzare. E niente, sì. Volevo parlare, io in passato sono stato fidanzato. Allora, qualcuno ci ha detto, scusate, qualcuno ci ha detto, scusami Gabriele, qualcuno ci ha detto prima, avete tappato la bocca a quello che ha chiamato che voleva parlare dei vaccini. No, non abbiamo tappato lui. La bocca a nessuno, lo stiamo richiamando, anzi proseguiamo nella ricerca di questo signore. Chiuso che lui. Ha chiuso il telefono e poi non risponde, è spento il telefono, non lo so, cioè succede spesso qui, cioè, non è che siamo lì a chiudere la bocca a qualcuno, figuriamoci. Questo stava parlando in maniera dettagliata dei vaccini, dell'autismo della figlia, eccetera. Se vuole tornare a parlarne, siamo qui. Vai, Gabriele, dimmi. Niente, io in passato sono stato felicemente innamorato di una ragazza che arrivava dall'Uruguay, che lavorava. Ragazzi, per risposarsi ci vuole il capitale. Come mi ha detto questa mattina, mi ha detto una persona, questa persona qua, una persona bravissima, una bravissima persona, ci ha detto: ci vuole il capitale, c'è il capitale. E ha detto: hai fatto bene, se c'è il capitale, hai fatto bene. Amico mio, c'è il capitale, c'è il capitale, c'è il capitale, ci sono i quattrini, non ci sono poi problemi con gente che ti chiede soldi. Ha fatto bene, ha fatto benissimo. Ma uno a 50 anni, 52, 53, 54, 55, non so quanti anni abbia, fa bene. Ma che devi pensare che poi una ti incula e ti chiede soldi? Ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su, c'è il capitale, c'è il denaro. Vabbè, quello di base, c'è il denaro, c'è il capitale, uno si può risposare. Non c'è il capitale, non c'è il denaro, vai a casa. Prendi il camel, ciapa il camel e torna a casa del tuo quanto, padre. Quanto cinismo. Sei un distruttore non solo di paese, ma anche di amore, di famiglie. Sei proprio il peggior esempio che l'umanità può rappresentare. Gabriele, l'Italia dai. Non è così. Avessi avuto il capitale, sta ragazza me la sarei anche sposata, perché senti, ero innamorato. Ma di chi? Di chi tieni? Non ho capito, parli? Di chi? Della prostituta? Allora, torniamo indietro. Torniamo indietro, che non mi ricordo più. Mi sono interrotto. Vai, ho iniziato dicendo che lo sfruttamento della prostituzione va abbattuto, bisogna abbatterlo legalizzando. Comunque non tutte le ragazze sono sfruttate. Io in passato sono stato innamorato, fidanzato, mettila come vuoi, con una ragazza arrivata dall'Uruguay appositamente a Milano per fare la puttana. Ti sei innamorato di una puttana in sostanza? Sì, no, non l'ho conosciuta come cliente, l'ho vabbè, conosciuta comunque, una puttana come... era, insomma. Dai. Sì, questa è venuta appositamente, non per appunto, fare le pulizie da Montevideo, aveva bisogno di tirare su soldi, mantenere la famiglia al paese, il metodo più veloce, vieni a Milano, fa la puttana, noi italiani... Non è il metodo più veloce, adesso non è che per forza uno deve fare la puttana, io sono esatto. D'accordo no, con la prostituzione, comunque vabbè, questa qua faceva la puttana, viene la ti sei innamorato, qua. Poi? Niente... umanamente una cosa romantica, roba di... vabbè, però è anche tirata fuori dalla strada, sarebbe stata una cosa meravigliosa per mettere e dire no, non fai più la puttana perché ti avvicina amo. La bocca al microfono, non si capisce sì, più sì, niente sì, vai, allora sì, sì, sì ti sì, sento sì, allora? Il telefono proprio. Allora? Solo che lei aveva ormai un certo tenore di vita e io da non mi sarei mai potuto permettere di mantenerla, ma forse neanche tu, e dunque? Comunque assolutamente no, e dunque? Quindi che vuoi dire no. Con tutto questo ragionamento? Non ho capito. Niente. Vuol dire che non tutte le ragazze sono sfruttate. Sì, alcune lo fanno per avere un tenore di vita alto, ma questo sfruttamento lo... Sì, ma lo sapevamo questo qua, che molte fanno le... Parenzo non ci vuole credere ancora. No, molte fanno le puttane, qualcuna, sì, molte ma... fanno le prostitute per avere un tenore di vita molto alto. Mettitelo in testa, la gente sfrutta il proprio corpo, giustamente sfrutta il proprio corpo per ottenere un livello di vita più alto e io francamente non riesco a condannarlo. Non è che faccio i discorsi, la società dovrebbe, il mondo no, dovrebbe quello... andare in un'altra direzione, il corpo delle donne. No, non li faccio questi discorsi ipocriti, ridicoli, inutili. Dico semplicemente se qualcuno vuole usare il proprio corpo per fare certo. Del denaro, tra virgolette facile, che non è vero che è facile perché comunque scopi col tuo corpo, utilizzi il tuo corpo e non è semplice, non è facile, fa benissimo. Ovviamente dove non c'è lo sfruttamento. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao, ciao. La Zanzara. Prima Richard Benson. Poi questo qua, Ruggero dei Timidi. Cazzo, è impossibile lavorare in ufficio con questa canzone nelle orecchie. Impossibile. Impossibile. Siete degli stronzi, dovete solo andare a fare in culo. Cruciani, parliamoci chiaro, Parenzo c'ha il cazzetto, ma proprio al 100%, mi sembrava giusto dirlo, cazzetto. Ma io dico, ma come si fa nel 2000 ad andare ancora a puttane, dai? Cioè, godere perché pagando una persona, cioè proprio poi se fosse tua figlia, guarda, chi va a puttane è come si... Chi si fa le canne? Sono dei vigliacchi. Miserabili! La Zanzara. A proposito di cani, nel mio ristorante ieri è successo un fatto spettacolare, entra un signore con un alano bellissimo, spettacolare. A me mi stanno sul cazzo tutti i cani, Crucia, sto con te, però questo è veramente al top. Si siede, mi ordina prima una fiorentina e poi una un antipasto di mare. Io dico, scusi, ma le devo portare prima la fiorentina e poi l'antipasto di mare? La fiorentina è per il mio cane. A farvi cagare in bocca. Ciao Emilio. I figli di puttana che non siete altri. Qualunque no. Cosa. Ma no, Emilio. Siete dei maledetti schifosi bastardi. Sto lavorando e voi chiamate. Sto scrivendo. E voi chiamate. Che Dio vi stramaledica. Che fa? Ormai... Siete voi che dovete morire. Ma non do pensione, che lavoro fa? Siete dei bastardi. Siete dei porci maledetti. Maledetti, maledetti, Dio vi deve, guarda, vi deve stramaledire voi e le vostre famiglie. Cornuti che non siete altri. Disgraziati. Ma che lavoro fai adesso? Vaffanculo, lurido pezzente. Che numero sto? Cornuto, cornuto. Ah. Dove stanno i cornuti come te? Tu. Ma tu ti rendi conto che mi avete rovinato 2 anni della mia vita? Ma voi vi rendete conto? I certificati medici dichiarano delle cose che quando avremo i vostri nomi vi assicuro vi faccio una. Lasciatelo perdere, poveraccio, Vittorio, Emilio, cioè lo state riducendo uno straccio, è gente che chiama, ma cioè, è incredibile, no? Basta, no? Ormai è quello che è, no, Parenzo, scusa. Sei andato in bagno a fare la pipì? Come fai a saperla? Me l'hai scritto. Scusa, ho capito, non pensavo che non dicessi. Di che colore era? No, molto trasparente, perché bevo tanta acqua, come sai, durante le dieta. Perché il mio cardiologo mi ha detto di bere. Ah, trasparente. 2 litri di acqua al giorno. Quello tutti. Sì, però me l'ha detto. Allora, guarda, oggi arrivo in redazione e mi arrivano 2 libri. Dico, sì. Ah, che meraviglia, 2 libri mi arrivano. Sì. Sanno che da 6 anni ormai facciamo insieme questa porcilaia, no? Sì. Dico, mi manderanno dei libri, come dire, attinenti con il mio lavoro quotidiano, no? Bene, sì. Apro il primo, sì. Del signor Robert Durkan, titolo La vita alla corte degli imperatori romani da Augusto a Diocleziano. Secondo libro, Philip Mansell, Aleppo, ascesa e caduta della città commerciale siriana. Ora, amici della casa editrice, sì. Secondo, e con un biglietto di oggi scritto, se vi può interessare per la vostra trasmissione. Dico, amici miei, porca puttana, ma non sapete che ogni giorno siamo qui a combattere con della gente che non sa neanche dove si trova Aleppo, con dei miserabili, con un signore che si chiama Cruciani, che dice delle porcherie inaudite, e voi mi mandate un libro interessante, per carità, sulla vita alla corte degli imperatori romani da Augusto Diocleziano? Ma io cosa devo fare? Aleppo, ascesa e caduta della città commerciale siriana. Buttali in questo momento dalla finestra. Vai, esci fuori dalla finestra e buttali. Per il suo lavoro quotidiano, ma voi sapete qual è purtroppo il mio lavoro quotidiano. Buttali dalla finestra, esci in questo momento e gettali dal finestrino. Per terra li ho buttati, per forza. Francesco Matera, vai, Francesco. Pronto? Dimmi Francesco, dimmi. Buonasera. Tanto mi mandano un pezzo di giornale da Padova. Da profughi, sì, sotto protezione a corrieri della droga, arrestati, sì. La polizia ha fermato 2 giovani nigeriani. Bene. Che erano profughi sotto protezione. Ottimo. Che si erano imbarcati a Roma su un pullman di linea, sì. In 2 trolle avevano caricato 7 kg di marijuana destinata alle piazze. Non governa più, non governa Bitonci, e le persone vengono arrestate. Va bene, ottimo. Dai, forza, chi c'è qua? Francesco, vai, dimmi. Allora, volevo chiedere a Parenzo. Che è questo qui? Come si chiama sto ragazzo? Francesco. A volte faccio parte della maggioranza silenziosa, sì. A volte di quelli che fanno mignotte. Volevo dire una cosa, ma questi kamikaze, quando si fanno saltare in aria, le famiglie vengono sostenute dall'ISIS, giusto? Non lo so, non lo sappiamo. Sì, qualcuna sì. Qualcuno no, sì. Qualcuna sì. Allora sono come i mafiosi. Io dovevo fare una legge mondiale in tutti i paesi che non sono islamici, dove o qualsiasi kamikaze si faceva saltare per aria, li dovevo ammazzare dal nipote alla bisnonna. Ammazzeresti le famiglie, i familiari tutta la famiglia dei terroristi? Dei kamikaze, no, dei terroristi, dei kamikaze. Vabbè, così quello che è terroristi, kamikaze, uguale, dai. I kamikaze sono peggio dei terroristi. I terroristi forse fanno delle azioni. Tu stermineresti per tutta la famiglia, ma non è bella questa roba qua. No, questo sarebbe un modo per dargli un po' di regole a questi kamikaze. Basterebbe semplicemente bloccare pensano... quei soldi, basterebbe semplicemente bloccare, cioè non è che le colpe dei padri ricadono sui figli, Parenzo, visto che è una cosa impossibile, ma non è che se in famiglia non è che se in una famiglia c'è una mela marcia si uccide tutta la famiglia, mi pare ho una capito, cosa un po' complessa se la tu sua. Pubblicizzi questo fatto sterminare qua, le famiglie dei kamikaze o dei terroristi. Donato Varese. Mamma mia, sentiamo se... ciao Giuseppe. Ciao, dimmi Donato, che è successo? Mamma mia, mamma mia, non ha ancora parlato, mamma mia. Ma no, ma perché già so, mamma mia, allora, dico solo mamma che mia. Questo che hai a mamma fianco, un mia. Domani quando tu Cruciano arriverai a 80 anni, no, speriamo, dovrai sì, piangere sì, per tutto il tempo che te lo sei tenuto a fianco. Comunque non puoi nemmeno parlare di questo demente che hai a fianco. Allora, Quella si porca, carica. Quella porcella della Bonino. No, basta, ma come si permette? Fai schifo. Emma Bonino la è una delle persone più limpide che vergognati. Ha ucciso 10 milioni di italiani. No, perché se ne va nei paesi arabi a dire che abbiamo bisogno 2 milioni di islamici perché la denatalità si fa sentire. Non si può toccare la Bonino, di pannella, ma non è questo il tema principale. Cioè tu stai dicendo che prima hanno ucciso gli italiani con l'aborto e adesso sì, hanno ucciso hanno indotto milioni di ragazzi italiani a uccidere i bambini mai nati. Ecco perché metanalità. Ho capito, ma amico mio, ma tu sei contro l'aborto? Non ho capito. Io no, però sono a favore dell'aborto. Io non so. Allora, io sono l'aborto per me, io sono concepito soltanto quando c'è in pericolo la vita umana. Purtroppo non c'era quando sei nato tu. Quello è il problema. Allora, quando tu sei nato non c'era ancora l'aborto. Allora, andiamo. Allora il Parlamento bisogna liberarlo dal PD e da tutto quel macciume di acqua reflua indegna che occupa il Parlamento per mettere le persone di destra. Ma che schifo è quest'uomo? Partito di destra per riuscire a riscattarci dal male dice quest'uomo? Ci vogliono le elezioni. Stiamo entrando. Ci vogliono le elezioni. Noi non siamo più sicuri nemmeno di parlare. La Boldrini ha comandato quel porco di Zuckerberg di dire che non dobbiamo scrivere la parola negro, non dobbiamo fare più niente. Qui c'è il terrore, caro Cruciani, ce l'hai a fianco. Io non voglio sapere il motivo per cui tu te lo tieni quello proprio, quello schifo, quella caserma umana, quel lezzo, quel culo di maiale che hai a fianco. Perché come questi c'è Aujas, c'è il porco Aujas, ci sono tutti quelli che lavorano. Allora guarda, spero che guardi, io devo salvare l'Italia. Querelatemi! Allora, noi siamo islamizzati. La famiglia Piccardo sta facendo pressione. Che vogliono mettere in Costituzione la poligamia. Anche se in Italia la poligamia, ho conosciuto un arabo 15 anni fa, mi ha detto: ma che cazzo dici, Donato? Io ho 5 mogli, me le chiave e me le porto qui. Quindi gli islamici stanno aumentando. Sì. Allora facciamo un referendum. Ma con diciamo l'Italia in mano all'Islam o in mano ai cristiani? Ma non si può fare il referendum così. Non si domanda può fare. No, la sinistra è uscita dal Parlamento. Bisogna andare a bruciare da Bersani, quell'idiota di Cooperlo. Ma non so quanti ce ne sono. Non servono a niente. Ma non servono, come non si chiama? Ma ci sono le elezioni. Anche il patrono di La Sette. È inutile che metti il pubblico dietro la Mirta Merlin di applaudire sulle persone dici di sinistra. Quella è una televisione da cacaglia addosso. Ecco, ma io spero, guarda, che ti portino via tutto. Sei un cretino, sei. Da cacaglia sei un poveretto, io sei. Sei uno stupido. Fermo che c'è la pubblicità. Pubblicità, fermi. Fermo Donato, fermo un attimo. Fermi tutti. Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi racconti. Comunista di merda. Ma non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. soltanto era imparare a camminare. Se non ci sei tu, comunista di merda. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. La Boldrini ha comandato quel porco di Zuckerberg di dire che non dobbiamo scrivere la parola negro. Querelatemi, io devo salvare l'Italia. Querelatemi. Allora, Donato da Varese con noi, molto incazzato dopo l'attentato a Manchester. Dice che vuole salvare l'Italia. In che modo, caro Donato? Non si può cacciare la sinistra dal Parlamento, come dici tu. È impossibile. No, bisogna cacciarla. Perché Ma come? Sono criminali matricolati da Renzi in poi, il grande bugiardo della storia. Cosa vorrebbe venire a assestare gli ultimi colpi per mandarci al cimitero? Ma non ho capito. Porco Renzi maledetto! Ma ho capito, amico mio. Io vorrei un appuntamento. Con chi? Con il vescovo Saviano. Con quel pezzo di merda. Ma che ha fatto? Non accetta mai le parla sempre da solo, come un dio. Ma nemmeno Gesù parlava del cielo. Gesù parlava davanti agli apostoli. E gli apostoli commentavano con lui. Chi è sto porco miserabile? Chi è sto Saviano di merda? Pazzo, ma voglio io nella vita che sei ancora davanti al mio cazzo. Ti voglio far schifoso, persona schifosa. Ma come un nemico? Chiudilo, sto stupido, schifoso. Quattro pezzo di merda di Mauro. Persona schifosa. Chi? Negri, Mauro, ma lo conoscete? Il nemico, che persona volgare e schifosa che è questo qua. Un uomo inutile, uno scafandro inutile. Ma non ci sono parole, è un poveretto, è uno stupido. Ciao, tu sei un delinquente! Ma perché? Ma hai detto delle cose tremende, sei uno schifoso, il gioco più sporco contro gli italiani! È impazzito. Ma tu ci credi a queste cose? Donà. Quali cose? A quello che stai dicendo. È svenuto, dai, sta male, ma è malato di mente. Ciao. Pensi di avere grande seguito tra gli italiani? Fermate la Boldrini. Hai grande seguito tra gli italiani o no? A scostare con i denti. Via. È impazzito stasera, è completamente pazzo. Una roba vergognosa, veramente. Una persona schifosa. Allora, Felice da Bari, vai, Felice. Sì, pronto, buonasera. Dai, dimmi. Allora, volevo portare la mia testimonianza. Io sono il papà di un bambino che a seguito del vaccino esavalente ha avuto dei danni. Sì. Ora, non ho capito, è stato provato che tuo figlio... Guardi, io sono anche vicepresidente di un'associazione di genitori di bambini autistici. È mai possibile che tutti quanti abbiamo avuto la stessa esperienza? È una coincidenza che tutti questi bambini... Poi un'altra casualità, molti del 2006. Allora, io non sono contro i vaccini, però evidentemente c'è qualcosa che non va. Evidentemente la sua amministrazione probabilmente non è giusta. Evidentemente adesso non lo so, ma nel caso di che la riguarda non hanno fatto i controlli giusti, per cui può capitare anche con altre medicine che uno rimanga il problema non è che non fanno mai controlli, ma prima questo di non è, non è vero che è così, perché altrimenti ma che cosa fanno, una visita, non è vero, perché io ho fatto fare ai miei figli ho fatto fare ai miei figli tutti e tre il vaccino esavalente, ma e l'ha quando fatto vai lei alla previsita di volontà, ma non c'è nessun pediatro, la ASL non le obbligano, dovrebbe essere obbligatorio per tutti i vaccini, a patto che abbia. Non è obbligatorio. Allora, oltre a mettere l'obbligo per i vaccini, le sto dicendo deve essere l'obbligo del pre-controllo. Capisco la sua tragedia, ma le sto dicendo che però può capitare anche con altre medicine. Uno può aver preso una medicina sbagliata perché non compatibile con il proprio però, corpo. Felice, preso... il senso di questa telefonata qual è, secondo te? Il senso è che io non sono contro i vaccini, ma ci deve essere il controllo pre-vaccino. Ma questo è così. Cioè, vaccino, questo però non c'è l'obbligo. Allora, se c'è l'obbligo del vaccino, ci deve essere l'obbligo del pre. Vabbè, d'accordo, però qui non è una trasmissione, non è una trasmissione scientifica, ma lei sa meglio di me che il pediatra in genere non è che dice conosce il bimbo e dice deve fare sto vaccino. Questo no, allora non prendiamoci in giro, i pediatri fanno fare i vaccini in automatico. Per tornare a quello che succede adesso, tu sei contrario a questa cosa dei 12 vaccini? Ma assolutamente sì, ma sono una bomba, ma 12 vaccini sono una bomba. Sono una bomba su questi bambini. Allora, se un bambino è sano, sta benissimo, è molto probabile che non gli succeda nulla. Ma basta, lei sa che uno stanno tornando delle malattie che si pensavano estirpate? Guardi, io preferisco 10.000 volte che mio figlio avesse preso la varicella piuttosto che... Guardi che c'è il rischio oggi, la varicella diventa talmente più forte che può diventare pericolosa in alcuni casi. Stiamo mettendo la varicella con un problema di autismo, ma non esiste una correlazione tra autismo e vaccini, non esiste alcuna comunità scientifica che dirà il contrario. Mi dispiace dimostrate ancora il contrario. Allora tutti questi bambini, mi dispiace discutere con lei perché capisco il suo stato d'animo, quindi è anche difficile, però lui sta dicendo che è sicura questa correlazione, che questa correlazione che cosa? La comunità scientifica, nel caso del figlio, sta dicendo che è sicura. Giusto, Felice? Tu sei sicuro che il vaccino ha provocato la medici hanno scritto questo? Credo che sia molto probabile. Ma no, credo. Mi scusi se glielo chiedo. Casi, sai, credo. Chi è il medico che non sono mico uno scienziato, è normale che non possa essere certo. Come voi non potete essere certi che non ci possa essere. Ma che vuol dire? Ma c'è qualche medico che gliel'ha certificata questa cosa? Allora, voi sapete che su molti vaccini, nelle controindicazioni, c'è scritto che c'è il rischio dell'autismo. Ma se lei legge il bugiardino della tachipirina, per dire, o di una aspirina qualunque, però non puoi mettere sullo stesso piano la tachipirina. No, sto dicendo che se tu leggi, non possiamo mettere, ci sono persone che risultano allergiche alla tachipirina, possono avere uno shock e rimanerci secchi, perché se tu leggi il bugiardino di qualunque medicinale, la controindicazione Ciao Felice. Allora ragazzi, c'è un signore che fa l'ingegnere, se non sbaglio, no? L'ingegnere? Un ingegnere molisano. Architetto, mi correggono, architetto molisano, un tale Marco Felice. Dunque, un architetto, uno pensa, una persona normale, Parenzo, no? Un architetto molisano. Io ormai non penso più niente. No, ma senti questa cosa qua. Architetto molisano, si chiama Marco Felice. Il terzo segreto di Fatima e il Molise. Il terzo segreto di Fatima non è solo la visione che dice il Vaticano, ma c'è il vero terzo segreto che fino ad oggi non è stato mai reso pubblico. Il messaggio dalle ricostruzioni che ho fatto io è questo. Allora, il Molise viene individuato come la fotocopia della Terra Santa. Il Molise è la fotocopia della Terra Santa. Cosa significa la M di Maria? Questo fa l'architetto, ragazzi. Veramente la follia ormai è devastante, ci opprime, opprime i cervelli di un sacco di gente. Qui, in questo luogo, c'è la costruzione della M di Maria fatto sulle particelle catastali che si connette a San Polo Matese tramite l'acqua. San Polo Matese c'è la Natività, il presepe che raffigura la Natività, ed è il paese a forma di croce. Civita Campomarano viene evidenziato come la Gerusalemme tramite un disegno di X dell'artista X. Marco Felice, architetto molisano e gli attentati terroristici. Tutti gli attentati che sono siglati servono a dire che siglati per dire: io a monte lo so, cioè come Dio, io lo so e ti sto dicendo che ci sta, che sono stati perché io lo so, quindi te lo sto dimostrando, per farti capire che sono io Dio che sto parlando e sto comunicando al mondo. Hai capito qualcosa tu? Nulla. I quattro santuari sono connessi, Castelpetroso, Medjugorje, Fatima e Lourdes. Dio sta riordinando il mondo per portarla alla pace. Speriamo sappia fare le case e gli appartamenti. Speriamo. Silvia da Massa, vai. Ciao. Dimmi. Volevo intervenire sul discorso prostituzione. Dimmi. Un parere femminile. Allora, io faccio la dentista e mi è capitato di avere a che fare appunto con ragazze o delle prostitute. E parlando è venuto fuori che guadagnavano delle Hai curato delle prostitute? Sì. E parlando più del più del meno, mi hanno detto, guarda, io una ragazza, mi ricordo in particolare, io guadagno sui 7.000 euro al mese, mi ha detto. Sì. E sul momento... Tutti in nero, ovviamente. Tutti in nero, amica mia. Tutti in nero, bravissimo, tutti in nero. Allora? Allora, all'inizio mi sono scandalizzata, ho detto, Capri, però se... Poi ho fatto un ragionamento semplice. Quando la gente viene da me, io vendo la mia testa e le mie mani. Loro vendono qualcos'altro, quindi hanno tutto il diritto, se sono consenzienti, se non sono sfruttate, di avere la possibilità di pagare le tasse, di farlo in un posto dove non rischiano di essere messe per strada e... Sì, vabbè, ma tu sei a favore della legalizzazione della prostituzione? Assolutamente, assolutamente, questo è il mio parere. E sicuramente molte donne mi criticheranno, però... Ma no, non è vero, ci sono un sacco di donne che conosco che sono a favore delle case chiuse, sono a favore della legalizzazione, poi, eccetera. Che ne sai tu che le tue clienti non sono sfruttate da qualcuno? Su? Appunto. Questo assolutamente. Se io sto parlando di una persona consentente, purtroppo come sono i denti delle prostitute? Quelle in particolare non erano il massimo. Cioè, in che senso? Però... Sono rovinati? Quella prostituta che sì, brutale, aveva i denti marci. Sì, vabbè, ma non c'entra niente la prostituzione, no, per carità, assolutamente. No, possono essere marci per il fumo, che ne so, possono essere marci perché sono cariati, perché non sono puliti, eccetera. Però per andare da un dentista, una prostituta, evidentemente, no, ci deve essere qualche emergenza da quel punto di vista, sì, o no? Sì, aveva bisogno di cure velocemente. Ecco, ma quando tu mettevi le tue mani, per carità, protette dai guanti, dentro la bocca di una prostituta, sì, non ti faceva un certo effetto, o no? Non ci pensavi che era la bocca di una prostituta? No, è una domanda che ti faccio. No, guarda, forse è il mio lavoro, quindi ogni bocca non mi spaventa, non mi dà fastidio. E poi ti dico, questo pensiero non mi ha proprio sfiorato minimamente. Adesso che mi ci fai pensare, ci ripenso un attimo. Dentro la bocca di una prostituta. Giovanni Torino. Ciao Silvia, bacio. Giovanni Torino, vai. Giovanni. Oh. Giovanni? Ci sei? Pronto, chi parla? Dimmi, chi parla? Mio nonno in cariola, chi parla? Che dice? Io volevo parlare con Parenzo prima. No, non parla. Dottore è andato a mangiare foie gras. Non parla proprio con miserabili. A parte gli scherzi, Parenzo, dottore, volevo esprimere... uscito. Pronto? Dimmi, vuoi parlare. Parenzo? No, volevo esprimere la mia solidarietà a Parenzo. Ma non c'è bisogno di solidarietà. No, dottore, ora contro di lui. Grazie, calo. Continuano a parlare male degli ebrei, insultano. E sempre io vorrei veramente dire che Parenzo ha l'idea come me. Grazie. Ed è una persona stimata. Dottore, come me. Confronta quella testa di cazzo che hai vicino di Cruciani che non capisce niente. Non so come fa. È laureato Cruciani. Quando viene a colazione dottore Cruciani, noi diciamo sempre molto capo e miserabile. Ma è laureato Cruciani. Sì, sono laureato. Dottore in scienze delle politiche. Un tipo del genere. Università La Sapienza Loma. Dottore Università La Sapienza Loma. Anche un cretino di un bar qualsiasi in giro, il primo scemo che trovi, sa fare quei discorsi. Sono onorato di questa tua descrizione. Quando fai questa missione fa schifo solo per te, dovresti vergognarti. Sì, ma io mi vergogno ogni giorno, soprattutto a una persona normale fa schifo, ricordati. E come mai la stai sentendo? Sei un pezzo di merda. Cosa sono? Dimmelo che godo! Io ti ho visto andare lì a quella. Fammi godere! Quando vai sulle 3, perché non c'hai le palle di parlare come Vabbè, ma lascia perdere, un altro. Non sai nulla, ti prego, insultami. Io intanto non telefonerò più, ma devo soltanto fare complimenti a Parenzo, volevo parlare con lui. Grazie, ogni tanto ti difendo però. Sì, lo so, però no, grazie. Perché no, grazie caro, perché la maggioranza silenziosa di questo paese. No, ma ci incontriamo senz'altro. Parlate voi due. No, ma ti capisco, però siamo qua, siamo in tanti, siamo numerosi, siamo la maggioranza. No, lo so, fratello mio, grazie. Miserabili. Parenzo,